Questa casa non è un albergo. Di Nicoletta Carbone e Alberto Pellai. Buona giornata a voi e benvenuti e buona giornata ad Alberto Pellai. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Ringrazio in regia Fabio Cantadori alla parte tecnica e Luigi Borghi in redazione. Alberto, oggi in questa puntata un tema un po' difficile, perché esploreremo il rapporto che i nostri figli hanno con Facebook, una parola che fino a poco tempo fa c'era totalmente sconosciuta e che adesso invece entra prepotentemente nella vita di tutte le famiglie là dove ci sono ragazzini in giro. Una parola che è diventata un tormentone, in alcune famiglie è diventata anche un incubo, per i nostri figli invece una grandissima passione, li ha proprio catturati, conquistati, esponenziale il numero di ragazzi che mese dopo mese costruisce il proprio profilo in Facebook. Ci sono alcuni fattori positivi, proprio questa settimana ho partecipato a un incontro che invece metteva in evidenza anche alcune ombre su Facebook. Per esempio, io non sapevo, ma alcune ragazze per costruire il loro profilo scelgono per esempio di mettere la loro foto, cosa che le può esporre ad alcuni rischi, e alcune addirittura mettono foto che le ritraggono per esempio nude oppure in costume. Ci sono tutta una serie di effetti collaterali che non avevamo immaginato, e chissà se i nostri genitori all'ascolto hanno qualche conoscenza di cosa fanno i loro figli in Facebook. Anche perché Facebook non uncina solo i ragazzi, ma anche chi ragazzo non è più. E ci sono tra l'altro molti adulti che attraverso Facebook in realtà hanno fatto anche cose bellissime. Ci sono progetti di prevenzione che sono passati attraverso Facebook. C'è la possibilità anche di migliorare il proprio status professionale, di costruire amicizie, sono nate naturalmente relazioni. Anche matrimoni sono nati in Facebook. 800 24 0024 se volete parlarne con noi, i messaggi 349 238 6666. Saluto subito la prima ospite, Silvia Ponzio. Ciao Silvia. Ciao, buongiorno a tutti. Autrice di Facebook, trova tutti i tuoi amici in rete, Sperling Editore. Allora Silvia, io vorrei che tu ci aiutassi proprio a capire, a darci una definizione, per sapere che cosa è esattamente Facebook. Allora, per proprio una facci una foto in modo che anche chi ne ha solo sentito parlare ma non è mai entrato possa avere un pochino l'idea di che cosa si tratta. Allora, Facebook è un social network, quindi una rete sociale, la rete sociale più frequentata al mondo, con oltre 200 milioni di iscritti. Mm. Per dare un'idea del successo che ha anche in Italia, i nostri connazionali iscritti sono oltre 8,5 milioni, ossia un italiano su 6 è già salito a bordo di Facebook. Questo già dà un'idea del successo, sì, di Facebook in Italia. Facebook nasce 5 anni fa da un'idea di un 19enne universitario americano. L'obiettivo era quello di mettere in contatto, diciamo, gli studenti. Okay, quindi nasce come una piccola rete universitaria, sì, che gradualmente nel giro di 5 anni praticamente ha oltrepassato i confini americani e ha conquistato praticamente tutto il mondo. Che cos'è una rete sociale? Allora, è un sito internet, quindi serve una connessione internet per collegarsi, ci si registra gratuitamente e offre degli strumenti per esprimere se stessi e interagire con i propri amici. Cioè, per capire un po' che cos'è, io solitamente lo divido in due aree, cioè un'area personale e un'area sociale. L'area personale è quella costituita dal profilo, ossia uno spazio dove è possibile inserire delle informazioni che ci riguardano, quindi una sorta di carta d'identità che diciamo esprime chi siamo. C'è uno spazio per esempio dove inserire una propria fotografia, eventualmente anche luogo di nascita, residenza, percorso scolastico. Nel tuo, Silvia, che cosa hai scritto ad esempio? Beh, il mio diciamo che è un profilo un po' professionale, sì, nel senso che avendo scritto un libro su Facebook diciamo che sono quasi stata obbligata a metterci davvero la faccia, nel senso che io lo uso sia per, ed è stato utilissimo per trovare vecchi amici di scuola, anche perché io ho vissuto in giro per l'Italia, quindi grazie a Facebook sono tornata in contatto con persone che non sentivo veramente da anni, e poi ovviamente ho diciamo, colleghi di lavoro, lettori, diciamo che è un po' un mix, il mio non è proprio un profilo normale, ecco. Dicevo che quindi c'è una sfera personale e una sfera sociale. Quella personale quindi è il proprio profilo. Ognuno decide come crearlo, che cosa pubblicare, quali foto mettere, quali video, album, eccetera, eccetera. E poi c'è la sfera sociale, che è quella che praticamente tramite appositi strumenti ci permette di interagire con quelli che sono entrati a far parte della nostra cerchia di amicizie. Quindi noi possiamo vedere quello che fanno gli altri, essendo un sito di interazione, è ovvio che nel momento in cui qualcuno entra a far parte del mio gruppo di amicizie io so esattamente che cosa sta facendo, cosa pubblica, e ovviamente è reciproco, quindi quello che io pubblico sulla mia bacheca confluisce poi nella finestra principale dei miei amici, che potranno commentare come posso farlo io. Quindi diciamo che è come una sorta di piazza. Sì, è una piazza. Un villaggio. È un villaggio virtuale dove diciamo che si parla di amici, però diciamo, non voglio dire, ma in molti casi sono conoscenti, perché diciamo è difficile, anche se esistono degli strumenti, è difficile ricostruire in Facebook gli stessi, diciamo, paradigma di amicizie, perché ci sono persone, per esempio, che fanno la collezione di amici. Cioè io vedo persone che hanno 2.000, 3.000, 4.000 amici, che è impossibile. E certo. E quindi diciamo che esistono alcuni strumenti che ti permettono di ricreare un po' questi livelli, cioè sono gli amici, sono i conoscenti, sono i colleghi di lavoro. Quindi usando un po' bene, diciamo, le regole sulla privacy, o comunque sapendolo usare bene, riesci un po' ad usare, cioè riesci a, diciamo, renderlo un pochino più, come dire, meno virtuale, non so come spiegare. No, ma ti sei spiegata bene. Noi continueremo a parlarne con i nostri amici da casa. Alberto, secondo te un figlio, un ragazzino, 13enne, 14enne, che decide di entrare in Facebook, sarebbe meglio lo comunicasse ai genitori oppure no? A te farebbe piacere, vorresti saperlo? Credo che a 13 anni questa cosa vada condivisa con i genitori. Ci sono altre preoccupazioni educative che secondo me vale la pena sottolineare. I nostri figli, i nostri ragazzi si incontrano su Facebook, e di Facebook parliamo oggi in questa trasmissione. Raccontateci che esperienze ne avete, come gestiscono questi incontri in Facebook i vostri figli. In linea con noi abbiamo Silvia Ponzio, che è autrice di Facebook Trova tutti i tuoi amici in rete. A proposito di amici, Silvia, ci scrive Cristiano da Lecce: ma Facebook non è la prova che globalizzazione è sinonimo di solitudine? Sembra un paradosso terribile, ma temo sia così. Cosa ne pensi, allora, Silvia? È una domanda che io mi faccio spesso, perché usandolo, per me Facebook è un mezzo, cioè è uno strumento, poi l'uso che se ne fa, cioè il motivo per cui evidentemente era qualcosa che la gente, di cui la gente aveva bisogno. È uno strumento. Cioè. Silvia, tu sei entrata in Facebook però a quanti anni? Vabbè, io ho una certa età, quindi sono entrata in Facebook circa un anno e mezzo fa, sì, per puro caso, tra l'altro, perché io sono giornalista, scrivo per riviste di vario genere, e quindi provo normalmente per lavoro moltissimi strumenti internet, certo, quindi non era il primo social che vedevo, e obiettivamente non mi ha colpito subito, perché mi sembrava uguale a tanti altri che avevo visto. La lampadina, cioè quando è scattata, diciamo, la lampadina, è quando io all'inizio non ho neanche creato un bel profilo, non ho neanche messo una foto, cioè non avevo tempo, avevo altre cose da fare in quel momento. Mi è scattata la lampadina nel momento in cui persone che non sentivo da oltre 20 anni mi hanno contattato, ma a raffica. Proprio un tam tam che corre veloce. Esatto. Alberto, io direi di presentare il nostro prossimo ospite, che è Alessandro Ferrari, sceneggiatore e autore di Facebook Domani smetto, di Castelvecchia Editore. Alessandro, ciao, benvenuto. Ciao a tutti, grazie mille. Allora, Silvia ha scritto un libro e su Facebook, di Facebook, ci sta raccontando le potenzialità. Tu, almeno dal titolo del tuo libro, da Facebook forse sei quasi tentato di uscire, smettere. Ma prima di dare la parola ad Alessandro, volevo chiedere a Alberto, i genitori che tu incontri, e soprattutto il convegno a cui hai partecipato recentemente, ha messo in luce anche alcune ombre, alcune preoccupazioni di molti genitori nei confronti di questa grande piazza, diciamo. Quali sono? Allora, tre preoccupazioni fondamentali. La prima è che i ragazzi usano questi strumenti senza avere le cosiddette regole della net etiquette, per cui molto facilmente, avendo uno strumento a disposizione, mettono a disposizione i loro dati, le loro immagini, i loro contatti, e entrano in un mondo che è oggettivamente più grande di loro, quindi diventano facilmente raggiungibili e contattabili da persone spesso che hanno molte più competenze e che possono realmente esporli a seri rischi. Secondo aspetto, in Facebook arrivano poi molte delle sfide evolutive ed educative che i figli si stanno giocando in quel momento, quindi nel momento in cui è un network sociale diventa anche un network per esporsi, esibirsi, e ripeto, c'è proprio questo problema, si chiama sex posting. Una ragazza su 5 ha dichiarato, come utilizzatrice di network sociali, di aver spesso caricato, o almeno una volta, scusate, caricato materiali e immagini di sé che sono proprio al limite dell'indecenza, lasciatemi il termine, cioè immagini in cui il loro corpo è molto esposto. Ultimo aspetto, e questo è un ultimo elemento che fa davvero preoccupare o arrabbiare i genitori: Facebook può creare dipendenza, cioè cresce sempre di più l'interesse dei ragazzi verso questo social network, ma cresce sempre anche di più il numero di figli che interrompono una cena per andare a vedere chi si è collegato con loro su Facebook, interrompono compiti e lezioni perché devono stare su Facebook, fanno i compiti e le lezioni con Facebook di fianco, non solo ed i è bambini, un continuo però, non saltare solo i ragazzi, però. Dal libro di scuola, certo, al social network. Alessandro. Sì, in effetti devo dire che il problema mi riguarda. Io lavoro con Facebook di fianco, non riesco a smettere. No, direi che la dipendenza assolutamente è il centro, infatti, del mio libro, è proprio la dipendenza, è costruito come se fosse una dipendenza da una droga quasi. E Facebook effettivamente può creare dipendenza perché il bisogno di attenzione, come si diceva prima, il fatto che tutti ti possano commentare, che quello che dici riceve attenzione, anche le tue foto, i tuoi dati, quindi ci sono persone sempre lì. Perché più sono gli amici, più c'è possibilità che ci sia qualcuno in quel momento che ti possa commentare, ti possa dire qualcosa. Paradossalmente questo crea voglia di averne ancora di più e quindi di comunicare, e questo è il lato negativo. Il lato positivo? Il lato positivo, infatti, il mio libro è tutto Silvia, sul negativo, sì. Ma da cerca di definire anche il positivo, come si diceva prima, secondo me è la comunicazione, il fatto che attraverso le questa quantità enorme di persone che circolano e che fanno circolare commenti e foto che magari, come si diceva prima, possono essere quelle sexy o di altro tipo, però circolano anche le idee. Circolano anche le idee. Vediamo che cosa ci racconta, che idea ha di Facebook Simonetta, che ci chiama da Roma all'824-0024. Simonetta, benvenuta e buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Niente, volevo dare una piccolissima opinione perché io ho quasi 62 anni, sì, e normalmente la mia generazione non è che molto molto sia pratica di internet e scorrendo. Io ho avuto la fortuna di lavorare in una scuola dell'informatica, quindi diciamo che un pochino sei attrezzata per poter accedere a questa cosa. Chiaramente non trovo tantissimi amici, per esempio questa cosa non riesco a farla perché proprio perché nella mia generazione molte persone non sono pratiche di computer, quindi logicamente è più difficile poi trovare questo tipo d'aspetto. Infatti diciamo, anche Laura Simonetta ci scrive: ho 58 anni e non riesco a trovare nessuna vecchia amica di scuola su Facebook, poche, fenomeno solo per giovani. Sì, sono poche, però ho trovato una che sia, come diceva Silvia, uno strumento meraviglioso, perché io riesco a seguire attraverso quello, perché poi ognuno di noi ci mette dentro del suo, ci sono degli interessi, quindi che ne so, a me piace la politica, seguo molto la politica e seguo le associazioni animaliste, quindi riesco ad avere in tempo reale una marea di informazioni, perché poi attraverso questa cosa io mi sono fatta tutto un gruppo che ha questi stessi interessi, giovanissimi, perché spesso anche ragazzi di 25-28 anni mi scrivono perché hanno questo stesso tipo di interesse in comune con me, quindi ho allargato le mie amicizie diciamo a macchia d'olio anche per quello che riguarda generazioni molto diverse dalla mia, e alcune coetanee, non so, giornaliste, persone veramente che seguono delle cose a livello di attività proprio umana, vera, profonda. Io ho trovato, per me è stato un mezzo stupendo, perché riesco a tenermi aggiornata, perché quasi tutti i giorni io entro un paio d'ore su Facebook, non sono drogata, non ho questo tipo, non sono compulsiva. sì, vado quasi tutti i giorni, vado a vedere chi mi scrive, mando in giro. E poi come si dice, come diceva Alessandro, Simonetta, insomma, su Facebook circolano le idee. Grazie allora Simonetta da Roma. Alberto? Ma direi è una bella testimonianza che un po' demarca la linea di confine tra essere in controllo di Facebook oppure essere controllati da Facebook. Cioè Facebook può essere una risorsa straordinaria se tu ci entri e hai degli obiettivi chiari. Simonetta ci ha detto: avevo o degli interessi o delle passioni, volevo condividerli e creare una sorta di comunità intorno al tema. Quindi Facebook diventa un facilitatore che approfondisce il lavoro sui contenuti. Allora facciamoci aiutare da Silvia Ponzi e da Alessandro Ferrari a capire che cosa noi dovremmo dire ai nostri ragazzi, parliamo di ragazzini, no? Che si sentono grandi ma sono ancora un po' sprovveduti, per utilizzare bene Facebook. Certo, e intanto io lancio questa domanda ai genitori: se vogliono chiamarci o mandarci un SMS, io vorrei capire se loro sono informati di ciò che i loro figli fanno su Facebook, se ne parlano insieme, oppure se Facebook è diventato un territorio che viene esplorato in totale libertà da un figlio e questo non deve competere alla, in qualche modo, al monitoraggio, all'accompagnamento educativo di una mamma e di un papà. Cosa bene, fate allora, voi? Allora, prima delle istruzioni per l'uso buono di Facebook, chiediamo ad Alessandro e a Silvia di rispondere un pochino al tuo appello. Silvia, secondo te un genitore dovrebbe controllare i figli su Facebook oppure è un territorio di estrema, cioè assoluta libertà? No, io direi che un minimo di controllo dovrebbe esserci, perché come diceva prima Alberto, il fatto di postare delle fotografie, postare significa pubblicare su Facebook delle fotografie al limite dell'indecenza. Se un genitore è iscritto a Facebook ed è collegato al figlio, è una cosa che vede immediatamente. Quindi tra le righe potresti dire ai nostri amici da casa, ascoltatori: se vostro figlio è su Facebook, entrateci anche voi e così lo controllate, gli date un occhio? Il minimo, cioè diciamo che se un genitore vuole avere qualche chance di sapere che cosa sta facendo il figlio in quel momento su Facebook o cosa fa su Facebook, deve prendersi 2 minuti del suo tempo, registrarsi, non costa nulla, si collega al figlio e come avevo detto prima, praticamente tutto quello che tu fai su Facebook confluisce nella finestra dei tuoi amici. Quindi un genitore si collega una volta al giorno, 2 volte al giorno e controlla il figlio che cosa pubblica, che cosa commenta, che cosa fa. Cioè diciamo che non è un controllo, è chiaro, ma Silvia, non è ossessivo, un controllo non ossessivo, un occhio ai ragazzi. Alessandro, prima di andare al nostro GR, facci sapere che cosa pensi a riguardo. Ma sono d'accordo, sì, secondo me ci sono 2 cose da fare. Intanto cominciare prima a far capire, a insegnare al figlio che come funziona il mondo di internet, quindi secondo me lo sforzo del genitore deve essere doppio, non solo su Facebook ma generico su internet, sì. Conoscerlo molto meglio del figlio e questo già permette al figlio di entrarci con una consapevolezza diversa. E il controllo, sì, sono d'accordo, perché a una certa età è giusto che ci sia un minimo di controllo da parte dei genitori, non ossessivo sicuramente, ma proprio di esperienza. Se un genitore lo conosce e lo usa, a quel punto anche il figlio lo usa, ma è sempre veicolato attraverso l'uso del genitore, non va allo sbaraglio in un certo senso. Siamo tornati, Andrei, al nostro consiglio di lettura e poi torniamo a parlare di Facebook. E grazie all'iniziativa di Internet Book Shop oggi potete ricevere a casa il libro che si intitola, l'abbiamo naturalmente scelto proprio prendendo spunto dalla trasmissione, Facebook come le nuove relazioni virtuali. Per riceverla a casa dovete però essere il primo ascoltatore a inviare un'email a esserebenessere@radio24.it col titolo del libro, i recapiti e il vostro numero di telefono. In collaborazione con IBS.it. Allora, l'idea di entrare in Facebook per in qualche modo capire che cosa sta facendo il proprio figlio ha scatenato i nostri ascoltatori, che si dividono e danno anche dei tanti suggerimenti. Intanto voglio dare come promesso la linea a Marco da Latina. Buongiorno. Buongiorno. E innanzitutto i complimenti per la trasmissione sono superflui, però vi seguo sempre, quindi ogni tanto non sono d'accordo con voi, però è un'ottima trasmissione. Volevo dire solamente questo: Facebook e tutto ciò che è internet sono mondi virtuali. Quello che noi manca oggi è il senso della famiglia, della comunità, perché tutto quello che è virtuale noi l'abbiamo tolto al reale, abbiamo dato meno importanza alla famiglia, l'abbiamo scardinata completamente e adesso ne stiamo pagando le conseguenze. Certo, seguire un figlio che va su internet può essere molto semplice, molto facile, ma può essere anche molto complicato. Lo sanno questi ragazzi che quello che inseriscono su internet non si cancella più? E allora incominciamo, al di là degli affari, del business che c'è dietro Facebook, andiamo a cominciare a dire sì, lo vuoi usare, usalo, però siamo più vicini a questi ragazzi, creiamo la famiglia, creiamo il senso della famiglia, cerchiamo di guardare in faccia i nostri figli ogni tanto e dire di che cosa hai bisogno, perché sei così. Sono queste le cose che mancano e che loro cercano in un mondo virtuale che è un mondo completamente inesistente. Alice nel Paese delle Meraviglie, in quello specchio, aveva anticipato quello che è il mondo virtuale di oggi. Ecco, solo questo. Grazie Marco, perché la sua telefonata ci dà tanti spunti. In effetti Marco sottolinea l'importanza di guardare in faccia i propri figli, di attrezzarli, no? Per affrontare un po' la vita, il mondo virtuale, credo, quello reale. Credo che, estendendo la riflessione di Marco, il rischio è altrimenti quello di diventare genitori virtuali di una relazione virtuale col figlio in Facebook e di cadere un po' nello stesso tranello in cui cascano i ragazzi che cercano amici virtuali in Facebook e tra l'altro sono molto felici, più ne hanno in Facebook più si sentono pieni di amici, ma come ci dicono moltissimi SMS che stanno arrivando, sono davvero relazioni significative. Antonio ci chiama da Milano, buongiorno. Grazie a Radio 24 per avermi dato questo spazio e ringrazio allo stesso modo Facebook per darmi gli spazi che concede. Io ho 36 anni, mio figlio ne ha 16, entra Facebook e come prima si diceva in un precedente intervento è come una piazza e come tale io scendo in piazza e opero un monitoraggio verso mio figlio, vedo costantemente quello che volevo sottolineare comunque che ci sono delle impostazioni di privacy per cui che non passi questa idea che tutto il mondo possa vedere le mie fotografie. Io ho limitato la visualizzazione delle mie fotografie e dei miei commenti alle persone che desidero e lo stesso ho imposto a mio figlio, per cui per quanto concerne il tempo che i figli passano sul computer utilizzando Facebook o altri strumenti, quello è devoluto alla famiglia. Sì. E accolgo naturalmente quello che ha detto Marco dalla Spezia, che comunque bisogna stare più in tavolino o uscire a fare una passeggiata insieme anziché stare al computer, però visto che esiste anche questo mondo, chiamiamolo virtuale, che comunque si dicono cose reali, i genitori non devono chiudersi, allontanarsi e vietare l'uso del computer, ma devono insegnare ai figli a usarlo in modo intelligente, che possa per loro essere un'opportunità, come ci spiegava Silvia Ponzio. Antonio, grazie. Tra l'altro Antonio ha una differenza, è un papà molto giovane. 36 anni lui, 16 anni il ragazzo, quindi è più facile anche parlare la stessa lingua. Ma volevo fare solamente una domanda ai nostri ospiti, perché arrivano tanti SMS che hanno bisogno proprio di informazioni. Davvero una volta entrati in Facebook non se ne esce più, non si può più togliere il proprio profilo? Lo chiediamo ad Alessandro Ferrari, che appunto da Facebook, forse con Facebook forse smetterà. Forse, vediamo. Vediamo, magari. Domani, non oggi. Domani, esatto, esattamente la stessa cosa con le sigarette. No, in realtà dicono che i tuoi dati vengano registrati, non si possano più togliere dai server. Però credo che questo sia un altro tipo di problema, perché comunque se tu cancelli il profilo nessuno può più vederlo e è finita così, nel senso che il fatto che i tuoi dati restino in un computer da qualche parte non lo vedo come un grosso problema, una volta che li hai messi sei consapevole che da qualche parte li hai messi. Certo. E poi puoi fare una richiesta ufficiale, se non sbaglio, per poterli cancellare per sempre. Però ecco, già questa è una cosa da dire ai nostri figli. Invece a Silvia vorrei chiedere di rispondere a Paolo, cioè di commentare un messaggio di Paolo che ci scrive: basta cliccare sull'icona nascondi e nessuno potrà vedere con chi scrivi e cosa scrivi. Altro che controllo. Silvia, Volevo soltanto aggiungere una piccola cosa a quello che ha detto Alessandro prima. Esiste una procedura ufficiale di Facebook che ti permette di cancellare completamente il tuo profilo. Ok, ed è una procedura che dura 14 giorni. Se tu non fai questa procedura in 14 giorni, non ti colleghi, al 14esimo giorno tu non esisti più su Facebook. Per quanto riguarda invece le immagini, le foto, i video, eccetera, che sono sul server di Facebook, vengono eliminate gradualmente, cioè in teoria vengono sovrascritte dagli altri dati. Questa quindi è una ricerca se uno... che hanno fatto in Inghilterra un mese fa, a cui sono stati i risultati, che hanno preso in esame vari social, e effettivamente questa funziona cosa... così. Rispondiamo invece a Paolo da Milano. È vero che basta cliccare sull'icona nascondi e nessuno può vedere con chi scrivi e cosa scrivi? Allora, su Facebook sono soltanto due strumenti privati, che sono la chat e la posta elettronica. La questione del nascondi in realtà è diverso, nel senso che quando tu ricevi nella tua finestra principale gli interventi degli altri e usi il comando nascondi, tu non li vedi. Però questo non significa che non arrivino. Certo. Cioè, non è così. Non è così. Bisogna ritornare su questo tema perché Alberto è tempo di salutarci. Il pensiero di chiusura di Alberto Pellai a questo tema. Alberto. Ma io credo che come tutti i territori nuovi offrono opportunità, offrono anche rischi significativi. Bisogna accompagnare i figli con gradualità a conquistare la loro libertà anche dentro i territori virtuali. Allora, saluto Silvia Ponzi e Alessandro Ferrari che ci hanno dato una mano. Salutiamo i nostri ascoltatori che ci hanno seguito e aiutato ad affrontare un tema su cui torneremo sicuramente. Buona giornata da Nicoletta Carbone ed Alberto Pellai.